Tanto per cominciare, disse a Jupien, questa casa è tutt'altro. È qualcosa di più d'una casa per alienati mentali, dato che la follia dei pazzi che vi abitano è messa in scena, ricostruita, visibile. È un vero pandemonio. Avevo creduto d'arrivare giusto in tempo, come il califfo delle mille e una notte, per soccorrere un uomo che stavano picchiando, ed è stato un altro racconto delle mille e una notte che ho visto realizzarsi davanti a me, quello in cui una donna, trasformata in cagna, si fa picchiare volontariamente per ritrovare la sua forma originaria. Jupien parve molto turbato dalle mie parole, perché capì che avevo visto percuotere il barone. Rimase per un attimo in silenzio, mentre io fermavo un fiacre che passava. Poi, di colpo, con la bella prontezza di spirito che mi aveva spesso colpito in quell'uomo che s'era fatto da solo quando trovava, per accogliere me o Françoise nel cortile di casa, parole tanto graziose, «Parlate di diversi racconti delle mille e una notte», mi disse. «Ma io ne conosco uno che non è privo di rapporti con il titolo d'un libro che mi sembra d'aver visto in casa del barone». Alludeva a una traduzione di Sesamo e i Gigli di Ruskin che avevo fatta avere al signor di Charlieu. «Se mai foste curioso, una sera, di vedere, non dico 40, ma una decina di ladroni, basta che veniate qui. Per sapere se io ci sono dovete solo guardare quella finestra lassù. Lascio una piccola fessura, aperta e illuminata. Vuol dire che sono arrivato, che si può entrare. È il mio sesamo. Dico solo sesamo. Quanto ai gigli, se sono quelli a interessarvi, vi consiglio d'andare a cercarli altrove». E salutandomi senza cerimonie, giacché una clientela aristocratica e una cricca di giovanotti che egli capeggiava come un pirata gli avevano dato una certa familiarità, stava per congedarsi da me quando il fragore d'una detonazione, una bomba che non era stata anticipata dalle sirene, lo indusse a consigliarmi di rimanere un attimo con lui. Ben presto cominciò il fuoco di sbarramento, e così violento che si intuiva come l'aereo tedesco fosse vicinissimo, proprio sopra di noi. In un attimo le strade diventarono completamente buie. Solo a tratti un aereo nemico che volava abbastanza basso illuminava il punto dove voleva gettare una bomba. Non ritrovavo più la strada. Pensai al giorno in cui, andando alla Raspellier, avevo incontrato, simile a un dio che aveva fatto impennare il mio cavallo, un aeroplano. Pensavo che adesso l'incontro sarebbe stato diverso e che il dio del male mi avrebbe ucciso. Affrettai il passo per fuggirlo come un viaggiatore inseguito dall'alta marea. Giravo in tondo nelle piazze buie da cui non riuscivo più ad uscire. Alla fine le fiamme di un incendio mi fecero luce e potei ritrovare la strada mentre crepitavano ininterrotti i colpi di cannone. Ma il mio pensiero aveva preso un'altra direzione. Pensavo alla casa di Jupien, forse ridotta in cenere ormai, perché una bomba era esplosa vicinissima a me non appena ne ero uscito, quella casa su cui il signor di Charlieu avrebbe potuto scrivere profeticamente Sodoma, così come aveva fatto, con non minore preveggenza, o forse all'inizio dell'eruzione vulcanica e della già incipiente catastrofe, l'ignoto abitante di Pompei. Ma che importanza avevano la sirena e i gota per chi era andato a cercare il suo piacere? Alla cornice sociale, alla cornice di natura che circonda i nostri amori, non pensiamo quasi mai. La tempesta in furia sul mare, la nave beccheggia da ogni lato, dal cielo precipitano valanghe attorte dal vento e noi non concediamo più d'un secondo d'attenzione per porre riparo al fastidio che ci arreca a quell'immenso scenario, dove siamo così poca cosa, e noi e il corpo a cui cerchiamo d'avvicinarci. La sirena annunciatrice delle bombe non turbava gli abitué di Jupien più di quanto avrebbe fatto un iceberg. Anzi, la minaccia del pericolo fisico li liberava dal timore che morbosamente li tormentava da lungo tempo. È un errore credere che la scala dei timori corrisponda a quella dei pericoli da cui essi sono ispirati. Si può aver paura di non dormire e non d'un duello serio, d'un topo e non d'un leone. Per qualche ora i poliziotti non si sarebbero occupati che della vita degli abitanti, cosa di trascurabile importanza, e non avrebbero rischiato di disonorarli. Molti, più che di ritrovare la propria libertà morale, furono tentati dall'oscurità scesa di colpo nelle strade. Alcuni di quei pompeiani, su cui già pioveva il fuoco del cielo, scesero negli ambulacri del metrò, bui come catacombe. Sapevano, infatti, di non esservi soli. L'oscurità in cui ogni cosa è immersa come in un nuovo elemento ha come effetto, irresistibilmente tentatore per certuni, di sopprimere il primo stadio del piacere e di farci entrare, senza indugio, in un dominio di carezze cui non si accede di solito che dopo qualche tempo. Sia l'oggetto bramato, di fatto, una donna o un uomo, anche supponendo che l'approccio sia semplice e inutili le galanterie che si prolungherebbero all'infinito in un salotto, almeno in piena luce, di sera, persino in una strada, per poco illuminata che sia, c'è quantomeno un preambolo durante il quale gli occhi son soli a banchettare e il timore dei passanti, della stessa creatura ambita, ci impedisce di fare qualcosa di più che guardare, che parlare. Nell'oscurità tutto questo vecchio gioco è abolito. Le mani, le labbra, i corpi possono entrare in gioco per primi. Se si è respinti, c'è sempre la scusa, appunto, dell'oscurità e degli errori di cui essa è causa. Se non lo si è, la risposta immediata del corpo, che non si ritrae, che si accosta, ci dà di colei o di colui cui silenziosamente ci rivolgiamo l'idea che non abbia pregiudizi, che sia piena di vizio, idea che aggiunge un sovrappiù all'ebbrezza d'aver potuto mordere il frutto direttamente, senza desiderarlo con gli occhi e senza chiedere permessi. L'oscurità, intanto, persiste. Immersi in quel nuovo elemento, gli habitués di Jupien, convinti d'aver viaggiato, d'essere andati ad assistere a un fenomeno naturale come un'alta marea o un'eclissi, e di gustare, in un luogo d'un piacere affatto preparato e sedentario, quello di un incontro fortuito nell'ignoto, celebravano, ai boati vulcanici delle bombe, a piedi un lupanare pompeiano, riti segreti nelle tenebre delle catacombe. In un'unica sala si erano riuniti parecchi uomini che non avevano voluto fuggire, non si conoscevano fra loro, ma si vedeva comunque che erano più o meno dello stesso ambiente, ricco e aristocratico. Ciascuno aveva nell'aspetto qualcosa di ripugnante che doveva essere la non resistenza a piaceri degradanti. Uno, enorme, aveva la faccia coperta di macchie rosse come un ubriacone. Seppi che dapprima non lo era e traeva piacere soltanto dal far bere dei giovani, ma terrorizzato dall'idea che lo chiamassero alle armi, sebbene all'apparenza avesse superato la cinquantina, essendo molto grosso, si era messo a bere senza posa nel tentativo di superare il peso di 100 chili, al di sopra del quale sarebbe stato riformato. E adesso, mutatosi il calcolo in passione, ovunque mentre era sorvegliato lo si lasciasse, lo si ritrovava da un vinaio. Ma non appena aprì bocca, vidi che, pur mediocre di intelligenza, era un uomo di grande tatto, educazione e cultura. Arrivò anche un altro personaggio del gran mondo, giovanissimo questo, ed una distinzione fisica estrema. In lui, a dire il vero, non c'era ancora nessun marchio esteriore d'un vizio, ma ce n'erano, cosa più sconvolgente, di interiori. Molto alto, un viso incantevole. Il suo eloquio rivelava un'intelligenza ben diversa da quella del suo vicino, l'alcolista, e, senza esagerazioni, davvero notevole. ma a tutto ciò che diceva s'accompagnava un'espressione che sarebbe convenuta a una frase diversa, come se, pur possedendo l'intero tesoro delle espressioni del viso umano, fosse vissuto in un altro mondo. Egli metteva, a volta, tali espressioni in un ordine che non era quello dovuto. Sembrava che sfogliasse a caso sorrisi e sguardi senza alcun rapporto con il discorso che stava ascoltando. Spero per lui, se, come è certo, è ancora vivo, che fosse in preda non a una malattia duratura, ma a un'intossicazione passeggera. È probabile che se si fosse chiesto a tutti questi uomini il loro biglietto da visita, si sarebbe scoperta con stupore la loro appartenenza a una classe sociale elevata. Ma un qualche vizio è il peggiore di tutti, la mancanza di volontà che impedisce di resistere a qualsiasi altro. Li riuniva lì, in camere isolate, è vero, ma, mi fu detto, ogni sera. Tanto che se le donne dell'alta società ne conoscevano il nome, ne avevano a poco perduto di vista il volto e non avevano più occasione, ormai, di ricevere le loro visite. Ricevevano ancora degli inviti, ma l'abitudine le riportava a quel luogo di composito malaffare. Si nascondevano poco, del resto, al contrario dei piccoli commessi, operai, eccetera, che servivano al loro piacere. E questo, a parte le ragioni che si possono intuire, si spiega con quella che segue. Per l'impiegato d'una ditta, per un domestico, andare lì era come per una donna ritenuta onesta andare in una casa d'appuntamenti. Alcuni che confessavano d'esserci andati negavano d'esserci mai tornati, e lo stesso Jupien, mentendo per proteggere la loro reputazione o per evitare concorrenze, affermava: «Oh no, non viene nella mia casa, non accetterebbe mai di venirci». Per gente del gran mondo è meno grave. Gli altri uomini del loro ambiente lì non ci vanno, non sanno cosa sia e non si occupano della vostra vita. Mentre in una fabbrica di aeroplani, se certi meccanici ci sono andati, i loro compagni, che li spiano, per niente al mondo ci vorrebbero andare, temendo che lo si venga a sapere. Mentre mi riavvicinavo a casa mia, pensavo come la coscienza faccia presto a smettere di collaborare alle nostre abitudini, che abbandona il loro sviluppo senza più occuparsene. E quanto avremo dunque motivo di stupirci se osservassimo semplicemente da fuori e supponendo che esse impegnino l'intero individuo, le azioni di uomini il cui valore morale o intellettuale può svilupparsi indipendentemente in un senso affatto diverso. Era stato evidentemente un vizio d'educazione o l'assenza di qualsiasi educazione, uniti alla propensione a guadagnare del denaro nel modo, se non il meno gravoso, perché molti lavori dovevano essere in fin dei conti più agevoli, ma il malato, per esempio, non si tesse forse a furia di manie, privazioni e rimedi, un'esistenza molto più gravosa di quanto non farebbe la malattia spesso leggera contro la quale crede così di lottare? Se non il meno gravoso, perlomeno il meno laborioso possibile, a condurre quei giovanotti a fare, per così dire, in piena innocenza e per una paga mediocre, cose dalle quali non ricavavano alcun piacere e che avevano dovuto ispirargli all'inizio non poca ripugnanza. Si sarebbe potuto crederli, per questo, profondamente malvagi, ma non soltanto furono in guerra dei soldati meravigliosi, degli incomparabili prodi. Anche nella vita civile erano stati spesso dei cuori generosi, se non addirittura delle brave persone. Da molto tempo non si rendevano più conto di cosa potesse avere di immorale o di immorale la vita che facevano, perché era quella del loro ambiente. Allo stesso modo, quando studiamo certi periodi della storia antica, vediamo con stupore esseri individualmente buoni non farsi scrupolo di partecipare ad assassini in massa, a sacrifici umani che a loro, probabilmente, sembravano cose naturali. Le pitture pompeiane della casa di Jupien convenivano peraltro, con il loro richiamare la fine della Rivoluzione francese, all'epoca alquanto simile al direttorio che stava per cominciare. Già, in anticipo sulla pace e al riparo dell'oscurità per non trasgredire troppo apertamente le disposizioni di polizia, si organizzavano ovunque nuove danze che si scatenavano per l'intera notte. Cominciavano inoltre ad aver corso, per ridare respiro alle menti soffocate, certe opinioni artistiche meno antigermaniche che durante i primi anni di guerra. Ma uno, per trovare il coraggio di presentarle, doveva avere il brevetto di civismo. Un professore scriveva un libro interessante su Schiller e lo si recensiva sui giornali. Ma prima di parlare dell'autore del libro si registrava come un imprimatur che era stato sulla Marna, a Verdun, che aveva avuto 5 menzioni al merito, 2 figli morti. A questo punto si lodava la chiarezza, la profondità del suo libro su Schiller, cui si poteva attribuire la qualifica di grande a patto di dire, anziché questo grande tedesco, questo grande crucco. Era, per l'articolo, la parola d'ordine e subito lo si lasciava passare.